Ciao a tutte, ciao a tutti. Oggi a Milano si sta svolgendo un corteo, una manifestazione dal titolo significativo Attacchiamo i padroni, prima gli italiani, contro le guerre neoliberiste, neocoloniali, la devastazione dei territori, la militarizzazione dei territori e delle città. E quindi, siccome qui da noi, cioè, per esempio, ci sono i nomi e una definizione precisa anche contro l'ENI, no? Quindi siamo in collegamento con due compagne dello spezzone femminista, perché c'è uno spezzone femminista all'interno del corteo. E ciao! Ciao, benissimo. Siamo qui in stazione centrale dove stiamo aspettando di partire, di iniziare il corteo, che vuole essere un corteo che andrà nella periferia della città, non in centro, andando un po' nelle zone critiche di Milano, e che vuole comunicare un po' con la gente rispetto alla situazione drammatica che si sta vivendo. Logicamente qui la stampa, non so se è arrivata una notizia anche a Roma, ma ieri i telegiornali milanesi e poi tutti i giornali milanesi sono usciti con titoli dicendo che ci sono i black bloc che arrivano da tutto il mondo Sì, e che vogliono devastare la città. titoli Sì, quindi terroristici. c'è questa piazza piena di digos, polizia, eccetera, però per il momento noi qui ci stiamo fermando, ci stiamo organizzando, abbiamo esposto una mostra che spiega un po' tutte le cose, faremo una serie di incominci qui e poi tra una mezz'oretta così più o meno partiremo. Quindi magari ci possiamo risentire più tardi per Ecco, raccontarvi come sta benissimo, andando il corteo. benissimo. L'unica cosa che volevo sapere, siccome voi avete lo spezzone femminista e questa è una grande cosa, avete uno striscione vostro? So che avete dato, avete fatto. Abbiamo uno striscione molto bello, molto colorato, pieno di donne in lotta. Poi vi mandiamo la foto Perfetto. dello striscione. Abbiamo parecchi volantini, anche noi siamo tutti organizzati. Logicamente sarà uno spezzone all'interno della manifestazione, ma completamente autodifeso ed auto-organizzato, e lo vogliamo caratterizzare proprio sul discorso delle donne e sulla violenza, sulla risposta. Ci saranno anche degli interventi di compagne che lavorano con le curde, insomma, ci saranno tutta una situazione abbastanza vivace. Stiamo puntando molto su questo spezzone e speriamo che venga bene. Bene, allora ci risentiamo più tardi, teneteci aggiornate. Un grande abbraccio a Perfetto. tutte e buona lotta, eh? Arrivederci, grazie, Ciao, ciao. ciao. Grazie.